Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. E anche di Gloria Guerrera, la nostra redattrice, Valerio Rocchetti, nostro regista. Bentornati all'ascolto. La settimana scorsa un ascoltatore ci ha scritto rimproverandoci che, parlando con Vera Slepoi di cose che riguardavano l'animo umano, ci eravamo dimenticati di notare, ahimè, che nell'animo umano risiede il peccato. E noi che siamo peccatori persistiamo, e questa settimana continueremo per questa strada, facendoci guidare in questo nostro cielo provvisorio da un italiano che, mai come altri in questi tempi abbastanza oscuri, tenta di insegnarci come tutto sia in fondo grazia. Benvenuto Monio Vadia. Grazie, grazie della presentazione, questa la scriverò in quelle memorabili, grazie di cuore e un saluto ai vostri ascoltatori. Beh, Monio Vadia ci sta insegnando cose importanti e soprattutto ce lo sta insegnando con il più antico e forse il migliore dei metodi pedagogici, il sorriso e, diciamo così, l'ironia. Sì, perché lo sguardo ironico e soprattutto lo sguardo umoristico hanno uno scopo eminente, e questo è nell'umorismo ebraico, spuntare le armi alla violenza e all'idolatria. Questo è il loro scopo. E quindi sono già per se stessi strumento di pace, perché mostrando la goffaggine dell'uomo, il suo ridicolo, E nell'umorismo ebraico è l'ebreo che ride di se stesso, che ride dei propri leader, dei propri rabbini, eccetera. Questo spera di disarmare l'aggressività, perché l'umorismo autodelatorio dice: sì, è vero, io sono proprio così, sono goffo, sono imbranato, sono pieno di difetti, però tutto sommato sono un essere umano, no? Questo dovrebbe essere sufficiente perlomeno a farmi esistere in questo pianeta. Bene, allora da dove partiamo per questo nostro piccolo percorso? Vorrei solo ricordare che di Monio Vadia è appena giunto in libreria il libro, ma anche il DVD, La bella utopia, che è un tentativo di raccontare, diciamo in modo ovadiano, niente proprio di meno che la storia dell'Unione Sovietica. È un libro, un DVD, anche uno spettacolo che ha delle date, vero? Sì, avremo una tournée, io in questo momento non le ho a mente, comunque nel nostro sito, che poi è semplice, moniovadia.it.com, si trova la tournée per chi fosse interessato, a partire dall'anno prossimo, insomma dal 2009. E sì, è stato un tentativo ambizioso, ma siccome io sono diffidente verso le elaborazioni troppo veloci, strumentali e furbesche dei lutti, e allora il crollo dell'Unione Sovietica è stato insieme una liberazione, un lutto, la fine di un grande sogno, è stato molte cose insieme. E naturalmente è stato gettato nel tritacarne, nel bidone della spazzatura televisiva, del revisionismo, quello che è utile alla demagogia politica. Allora io ho detto, ma io mi interesso di uomini, e mi interesso di uomini sconfitti, gloriosamente sconfitti, quelli che combattono per grandi ideali, magari ne vengono proprio, diventano le vittime di quegli stessi ideali, però... Ecco, a quegli uomini va reso onore, perché una cosa è il sistema, una cosa sono gli uomini. E allora l'utopia comunista è stato un immenso sogno che ha mobilitato con uno slancio generoso di abnegazione, di sacrificio, milioni e milioni di donne e di uomini. Ecco, tutto questo non può essere rubricato sotto lo stalinismo o gli orrori di Pol Pot, che vanno denunciati in modo fermo e irremovibile. Però al tempo stesso bisogna sapere che molti comunisti hanno lottato per lo sviluppo del mondo, per l'emancipazione degli umili, per l'emancipazione delle donne, per l'emancipazione dei popoli sottomessi al colonialismo e via dicendo. Allora non si può nascondere questa faccia della luna, sarebbe un'infamia, come oggi per esempio si tende a dimenticare quando si parla del secondo conflitto mondiale che... i caduti da parte sovietica sono stati 27 milioni e di questi almeno 18 erano civili innocenti. Non si può dimenticare questo. Ma abbiamo, diciamo così, questo strano fenomeno della memoria corta, per cui in realtà di tante cose facciamo una memoria eccessiva, come è successo quest'anno per ricordare il mitico 68, dove si sono dette un sacco di cose, poi alla fin fine ci siamo ridotti semplicemente a ricordare le canzonette e ci siamo dimenticati che dal 60 al 68 sono nate 100 nuove nazioni. Cioè, quello è stato il decennio in cui il mondo è ridiventato giovane, cioè siamo passati da una comunità politica di 46 stati a qualcosa che aveva superato i 150, ora sono 186 stati. Cioè, quello è stato il decennio in cui il mondo è ridiventato giovane e nessuno se lo ricorda. Come se parlare di Congo, di Burkina Faso, di Guinea, di, non so, Indonesia, anche stati importanti, fossero, diciamo, di Bangladesh, fossero dei piccoli ammenicoli così, piccoli dettagli. E in realtà la struttura del mondo. È il vecchio vizio dell'eurocentrismo. È l'ombelico dell'occidentocentrismo, ciò che avviene fuori dai nostri confini è poco rilevante e poi si tendono ad enfatizzare i fatti che servono. Non so, la strumentalità è una delle grandi piaghe del nostro proprio, della nostra modalità di pensiero. Che mi serve pensare, voglio dire, che appunto dal 60 al 68 sono successe queste cose straordinarie che hanno cambiato la fisionomia, l'interiorità del mondo, le sue prospettive, i suoi orizzonti. A me interessa, da un lato, magari celebrare la mia giovinezza che avvenne nel 68, non la mia, personalmente ero già piuttosto grandino, avevo già 22 anni che era essere piuttosto grandi allora, ma oppure mi interessa demonizzare il 68 e dire che tutti i mali del mondo sono cominciati nel 68, perché mi serve smontare tutte le cose che sono accadute nel 68 per cominciare da un'altra parte e si mette tutto nello stesso calderone. Ora noi, dimenticando per esempio che il 68 cominciò negli Stati Uniti d'America, a Berkeley, e poi si estese in Germania, arrivò in Francia e poi toccò l'Italia, e che fu all'inizio un movimento non violento, insomma gli slogan erano l'imagination au pouvoir, che è uno slogan molto bello peraltro. Ecco, si ha l'incapacità di accogliere la complessità critica dei fenomeni e insieme di cogliere quali sono i veri segni epocali, come quello che lei ha giustamente ricordato. Adesso i nostri ascoltatori ci domanderanno perché stiamo svicolando, però ahimè è successo che prima di accendere i microfoni io ho appreso la frase che Moni Ovadia sta per proporvi e che sembra, diciamo, una di quelle tante ammonizioni barbose bibliche, poi in realtà mi sembra che sia una di quelle risate scroscianti che Dio nella Bibbia riversa sull'umanità. Sono totalmente d'accordo sul fatto che Dio rida, qualche volta per disperazione. Dunque, sì, è questa frase molto dimenticata di questi tempi. Ricordati che fosti straniero in terra d'Egitto, amerai lo straniero come te stesso, io sono il Signore. O anche ricordati che tuo padre era un arameo errante, come giustamente lei mi ha suggerito. Ma in questo leitmotiv di frasi ce ne sono di straordinarie. Se non ricordo male è Matteo: ciò che fai al forestiero lo fai a me, queste sono parole di Gesù. E poi quella meravigliosa, è una delle mie frasi preferite, che chiude l'annuncio del giubileo nel Levitico. E alla fine di tutta la perorazione per lo straniero, il Santo Benedetto dice proprio all'ebreo: davanti a me siete tutti stranieri. Ma si dimentica che il grande peccato di Sodoma, in realtà, non fu quello che tutti pensiamo, ma fu il momento in cui due stranieri si presentarono alla porta della città e i sodomiti volevano, diciamo, come d'abitudine, cercare di ricavarne un vantaggio. E Abramo fu l'unico che disse: no, non toccateli, piuttosto prendete le mie figlie, perché lo straniero è sacro. Il peccato di Sodoma, il peccato per cui Sodoma e Gomorra vennero seppelliti in un mare di pece, fu perché non riconobbero nello straniero il segno di Dio che portavano. Sì, lo straniero è il portatore più lancinante della dignità dell'uomo, perché è in condizione di fragilità. Non è protetto da uno statuto burocratico che lo difenda. È in una condizione di debolezza, è l'ospite. E si sa che Abramo aveva la tenda aperta sui quattro lati per non mancare un solo straniero che transitasse, perché voleva ospitarlo, onorarlo, dargli cibo, dargli un giaciglio, lavargli i piedi, no? Che è il grande. E noi ci siamo, sì, questa cosa del sesso di Sodoma e Gomorra è una delle cose più allucinanti, perché io credo che se il merito fosse stato il sesso, l'ho raccontato anche in un mio spettacolo, credo che i sodomiti avrebbero piuttosto detto: abbiamo all'ora del happy hour abbiamo incontrato questi stranieri, abbiamo deciso di fare una magnifica orgia insieme, di loro di portare le patatine, pensiamo noi al beveraggio. Allora questo sarebbe stato... E poi pagheremo il toro per il sacrificio di purificazione. Ecco, esattamente. No, il sesso non c'entra veramente nulla, non c'entra veramente nulla, e l'ostilità allo straniero è considerato il peccato più grave, anche perché amerai lo straniero, rispetta onora allo straniero, è la parola più ripetuta nella scrittura. Monio Vadia, la nostra guida questa settimana, insieme anche al Sorriso di Dio, io ne sono perfettamente convinto. Il cielo in una frase, di Filippo Di Giacomo. E di Moni Ovadia, del quale ricordiamo velocemente la bibliografia, perché anche solo i titoli mettono di buon umore. Perché no, del 96, Oilem Goilem, i miti Mondadori, l'ebreo che ride, la porta di Sion, Trieste, Ebrei e dintorni, ballata di fine millennio, speriamo che tenga, viaggio di un saltimbanco sospeso tra cielo e terra, una sua scherzosa autobiografia, pare, dice, vai a te stesso contro l'idolatria, lavoratori tutto il mondo ridete, e la bella utopia appena giunto in libreria. Adesso le cedo subito lo spazio per la seconda citazione, così poi... cioè, diciamo, frasi memorabili che raccontano in una sola frase che cosa fu, per esempio, lo stalinismo. Stalin era solito rispondere al suo segretario Poskrebyshev quando questo gli veniva a comunicare: guarda, abbiamo un funzionario del partito che ci crea dei problemi. E Stalin rispondeva sempre, pare, «Niet chalavieka, niet problem». Se non c'è l'uomo, non ci sono neanche i problemi. Fu il suo, come dire, metodo di governo per liquidare i problemi, liquidare gli uomini che li creavano. Ecco. Rude, purtroppo funzionò e fu terrificante. E perché era un uomo totalmente anaffettivo, questo è il grande problema di chi si occupa, pretende di occuparsi di uomini, spesso è incapace di vedere i sentimenti, i dolori, le fragilità, no? Vede, no, quando si parla di numeri, no? Si dice tanti disoccupati, ma dietro ogni disoccupato c'è un essere umano, un dramma familiare, una frustrazione, dei bambini a cui si devono rispondere cose penose. Questo non viene visto dall'uomo anaffettivo, perché vede solo la cifra, per cui si può parlare del lavoro in termini di elasticità, di flessibilità, di... oppure appunto si può parlare di problemi in così, con soluzioni draconiane, no? Ecco, si può rifiutare i funerali a Pier Giorgio Welby. Ecco, si può rifiutare, perché la regola è più importante dell'uomo. C'è una cosa nella Bibbia molto bella a proposito. Dei precetti è detto vivrai in essi, vivrai in essi. I nostri maestri dicono i precetti sono per la vita, non la vita per i precetti. E questo è un fondamento strategico. I precetti ebraici possono essere tutti trasgrediti, tutti, per salvare una vita umana. Cioè il maial, diventano veniali il non lavorare di sabato. Se c'è una vita umana da salvare è più importante dei precetti. E questo è. Ebbene, tornando invece alla Russia, come si reagisce a Nietzsche, come si reagisce a una frase di questo tipo? A un uomo che è capace di sopprimere persone, illudendosi così di sopprimere i problemi, di risolvere i problemi. E ecco, naturalmente, quando gli strumenti politici sono del tutto privati per l'assenza di libertà, per la paura, il terrore che è instaurato deliberatamente, nei paesi slavi che hanno una tradizione di robusto bere, diciamo, l'alcol può essere un palliativo temporaneo, per l'amor di Dio, lungi da me di fare apologia dell'alcol, ma dico, e allora ecco che l'alcolista russo scopre che l'alcol ha delle virtù straordinarie. Questa è una dei proverbi dell'alcolista russo: «Niet ni krasivih zhenshin, ni stolka mala vodki», non ci sono a questo mondo donne brutte, casomai c'è solo poca vodka. E insomma, così, queste sono frasi topiche, ma ci sono, come dire, difese. L'umorismo è una grande difesa anche dall'apologia, dai miti ideologici e demagogici. C'è questa storiella attribuita a Radio Yerevan, una radio super ortodossa, che venne molto sbeffeggiata negli anni del brezhnevismo, perché era il simbolo della propaganda falsa, e allora gli attribuivano le cose più pazzesche. Allora i nostri ascoltatori ci domandano: è possibile costruire il socialismo in un solo paese? Noi di Radio Yerevan vi rispondiamo: sì, compagni, è possibile costruire il socialismo in un solo paese, ma poi è meglio andare a vivere in un altro. Beh, io farei ricorso alla sua autorità, dottor Ovadia, per spezzare una lancia a favore del modo di raccontare le barzellette. Diciamo ai nostri ascoltatori che una barzelletta che ha una premessa che supera i 10 secondi è una brutta barzelletta. Dunque, c'è una distinzione sottile. Quelle ebraiche noi le chiamiamo piuttosto storielle, Witz è il termine, motto di spirito in tedesco e in Yiddish, Witz. Sono di due forme. Una è la forma narrativa, ma la forma narrativa implica il grande narratore. Allora la storiella, diciamo, lunga deve avere un narratore che la sostiene, o qualcuno che l'abbia trascritta in modo da sostenere, è un vero e proprio racconto. Altrimenti è meglio affidarsi a quelle folgoranti, insomma. Se si è bravi narratori, allora all'interno della storiella si possono aprire vari rivoli, diciamo delle piccole derive umoristiche, che danno come una specie di flash, e allora riprende il racconto, viene di nuovo interrotto, riprende. Ma qui c'è un'arte antica. Nella consuetudine ebraica si raccontano storielle, le stesse anche, ognuno racconta le sue, e solitamente il vecchio ebreo, quando sente una storiella, reagisce in questo modo. Alte Meiser, Veschoen, Dazel Besser. Vecchie storie, la so già, la racconto meglio. Stiamo, diciamo così, avviandoci verso la conclusione del nostro programma. Io vorrei un po' concentrarmi sul suo ultimo libro, che poi è anche uno spettacolo. Sì. In fondo si è, diciamo così, un po' attribuito anche un compito abbastanza ingrato, perché poi in realtà parlare male di certi argomenti per la mentalità dominante ad un certo punto sembra quasi, diciamo così, una specie di attributo del ben pensante, del ben intenzionato. Ricordo tra l'altro un intervento di Giovanni Paolo II in cui disse: attenzione, perché c'erano delle tensioni sociali che non andrebbero perso. Il vescovo di Anversa, che ha sinodo sull'Europa, disse: attenzione, perché non è che, diciamo, bisogna buttare via l'acqua con tutto il bambino dentro. Però sono due dei tanti, diciamo così, appunti che anche nel mondo cattolico sono state sentite, dimenticate, messe da parte. Io per me è stato doloroso scrivere questo libro, perché io sono un uomo che crede ancora che gli ideali dell'uguaglianza, dell'abolizione dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, della giustizia sociale siano valori sacri. Però, diciamo, e da un certo punto di vista, avendo anche militato con la mia passione dalla parte, diciamo, che si chiama genericamente sinistra, però questo libro ha uno scopo doppio. In realtà, parlare di quell'epoca e dei suoi aspetti terribili attraverso quello che venne fuori lì. Tutte le storielle che racconto, tutti gli aneddoti, sono sovietici. Probabilmente nacquero all'interno del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, oppure da gente che a un certo punto o venne espulsa, o i trotskisti perseguitati. Nasce lì, tutto l'umorismo nasce lì. Però appunto lo scopo è doppio: da un lato raccontare quello che fu, soprattutto nei suoi momenti orribili, ma dall'altro lato rendere giustizia a esseri umani che hanno vissuto delle vite, che hanno pagato prezzi terribili, ma che hanno creduto in grandi ideali e si sono sacrificati. E poi magari parlare anche di un uomo che provò davvero a emendare quel sistema, di cui nessuno si ricorda più: Nikita Sergeevich Khrushchev. Nessuno spende più una sillaba per quell'uomo. È curioso che tutti questi revisionisti furenti non ricordino Nikita Sergeevich Khrushchev, che era un riformatore, ci provò, non era una mammola, intendiamoci, era stato un funzionario stalinista, però ecco, ricordare molte altre cose, ma soprattutto restituire vita, dignità agli uomini, agli esseri umani. Infatti il mio libro non è stato attaccato da sinistra, ma è stato violentissimo attaccato da pensatori, diciamo, piuttosto di orientamento liberista conservatore. Ho avuto 4 attacchi violentissimi, perché poi io sono uno che ha il brutto vizio di dire: certo, Stalin è stato un grande criminale, lo stalinismo è stato orrendo, ma non è che dall'altra parte ci siano state le sante anime, perché nel Novecento il più pulito c'ha la rogna. Sì, ma io qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, diciamo così, ho provato una grande tristezza a vedere che un pensatore con il quale mi avevo dovuto confrontare, perché in seminario ci obbligavano a leggere le introduzioni di Cesare Luporini all'Opera Omnia di Marx, cioè, abbiamo letto anche Gramsci grazie a Cesare Luporini, e quando è morto non è stato commemorato neanche dall'Unità. Ha educato, volente o nolente, una generazione di italiani sia ad apprezzare sia a contestare, come è stato il mio caso, il pensiero che lui tentava di illustrare. Ci ha educato tutti praticamente su opposte sponde, e quando è andato via, come i grandi pedagoghi, neanche i suoi lo hanno saputo riconoscere. Ed troppo per bene. Ed è forse appunto uno di quei segni terribili che il Vangelo ci consegna. Noi abbiamo così terminato il nostro tempo, che è corso veloce questa mattina e questa sera in replica. Grazie Monovadia. Grazie davvero a voi per l'invito, per l'opportunità, e peccato che queste conversazioni non possano durare per il tempo lungo. Grazie, comunque grazie, è stato bello. E grazie anche ai nostri ascoltatori, sia che ci apprezzino sia che ci contestino. Siete sempre comunque i nostri cari ascoltatori, e speriamo di avervi ancora con noi alla settimana prossima. Risentirci.